Contemporaneamente venivano promossi dibattiti con interventi e riflessioni sui temi dell'arte attuale, arte di parte e network, sull'uso e l'abuso della comunicazione, copyright e hackeraggio sociale, concerti di musica elettronica, installazioni di realtà virtuale ed ipertesti, mostre a sfondo ironico sui mutamenti del costume occidentale, proiezioni di video inediti. Ed ascoltiamoci anche l'intervento di Ferribyte, un altro dei fondatori di Strano Network. Che è nato un'idea un 3 mesi fa, in maniera un po' presentuosa, siccome in 2 anni si ragiona sulla comunicazione, si fa iniziativa, si detto, facciamo un bollettino sulla comunicazione. In maniera un po' presentuosa, che è sempre all'inizio anche abbastanza ignorante, anche se era fatto diverse volte su vari temi della comunicazione, andando a scavare i vari fondi di informazione e di documentazione sul tema della comunicazione, ci siamo accorti con questo di essere di fronte a un campo immenso su cui poter ragionare o scrivere qualche cosa. I fondatori di Strano Network ritenevano che telematica e informatica avrebbero potenzialmente allargato enormemente le opportunità di comunicare, socializzare, diffondere idee ed azioni dei movimenti a cui partecipavano. Nel suo libro Italia Overground, Sandrone Dazieri scriverà: da aprile a giugno 1993 sono state presentate 3 reti telematiche, ECN, Cybernet e Agorà. Contemporaneamente sono stati promossi dibattiti con interventi e riflessioni sui temi dell'arte attuale, arte di parte e network, sull'uso e l'abuso delle comunicazioni, copyright e hackeraggio sociale, concerti di musica elettronica, installazione di realtà virtuali e ipertesti, mostre a sfondo ironico sul mutamento del costume occidentale, proiezioni di video inediti. Alcune iniziative però erano già state organizzate precedentemente al CSA X Emerson dal 12 al 16 dicembre 1991 da Tommaso Tozzi insieme all'agenzia di comunicazione Antagonista, in cui furono presentate varie reti telematiche con dibattiti, installazioni, concerti e proiezioni video. Alcuni di coloro che daranno vita a Strano Network si conoscevano già dalla metà degli anni Ottanta, in quanto partecipavano all'attività del Centro di Comunicazione Antagonista di Firenze. In tale centro si ritrovavano quelle realtà che daranno vita nel 1989 all'occupazione del centro sociale autogestito Ex Emerson di Firenze, ovvero di quella che sarà la sede naturale della nascita e dello sviluppo di Strano Network. Le relazioni fra alcuni dei fondatori risalgono oltre alla frequentazione dei centri sociali della città anche all'avvio di alcune iniziative telematiche e alla partecipazione ad alcune tra le prime pionieristiche reti telematiche italiane, ben prima che Internet divenisse uno strumento fruibile all'utenza non accademica. Nel gruppo Strano Network si fondono più componenti culturali e politiche. Una di queste componenti è quella dell'autonomia e dell'internazionalismo. Negli anni Ottanta, infatti, all'interno del coordinamento nazionale antinucleare e antimperialista, si discute, oltre che delle possibilità offerte dalla telematica, anche di individuare dei sistemi per evitare il filtro dei media mainstream e della possibilità di sperimentare modelli orizzontali di discussione e decisione per la costruzione di un'organizzazione più aperta, meno verticistica e maggiormente coesa. Un'altra componente viene dal movimento cyberpunk e hacker, che si interroga sul significato politico dell'arte e sul ruolo dell'artista nella società in cui viviamo, ma anche sulle potenzialità delle nuove tecnologie emergenti e sulla funzione degli strumenti massmediali. Alle attività di Strano Network poi parteciparono tanti altri soggetti, collaborando e aiutando a realizzarle sul piano tecnico, logistico e in parte teorico. Moltissimi sono invece stati coloro che Strano Network ha invitato a presentare il proprio lavoro personale o di gruppo all'interno delle varie iniziative svolte negli anni seguenti. Tra questi, solo per citarne alcuni, Decoder, Havana BBS, Antonio Caronia, i Giovanotti Mondani Meccanici e molti, molti altri. La rete di relazione creata dal gruppo era vastissima, andando a toccare anche ambiti internazionali, oltre ad avere una frequente presenza sia sui giornali che sulle radio fiorentine. Strano Network si costituì come associazione nel 1994, dopo un anno di attività come gruppo di lavoro sulla comunicazione elettronica. Ed ora ascoltiamo un pezzo che fece da colonna sonora ad un video prodotto da Strano Network sulla propria attività, Batti il tuo tempo, degli Onda Rossa Posse. O fai la guardia o fai ladro. Ladro! Inseguito, braccato, preso a prigioniero un giorno presso all'alba. Ba ba ba ba ba. Io nel cuore, i quattro armati per portarmi via di casa. Sa sa sa devastata, spogliata. Come un film al cinema, ma questa volta è vero. Vero! Credimi è vero. Chi è legale, chi legale, il bandito, il criminale. Giusto, l'ingiustizia, terribile bellezza. Dentro le celle, nei ghetti che contrasto con i morti viventi. Odiosi, uomini fottuti. Bastardi. Senza dignità. Senza, ma con migliaia di miliardi, ma essere dei disastri. Tu li puoi vedere, controllo il paese nel balletto del potere. Vergogna! 10 anni di menzogne, triangolo di Russia, la strage di Bologna. E guarda in faccia le sue colpe, vivendo in fondo, guardando intorno, alzandolo il livello per capirlo molto meglio. Dove siamo illegali? Chi protegge noi da voi, da questi criminali? Batti il tuo tempo! Batti il tuo tempo! Ba ba ba ba ba, batti il tuo tempo! Batti il potere, batti il tuo tempo, batti il potere, batti il tuo tempo per forzare il potere. Questo è l'hip hop, questo è il suo ritmo, stile della posse. In azione, in piena azione, a colpire ancora il cuore. Non lo conosci? Allora attento, perché va che il suo tempo uccide il suono. Regole metriche del gioco, ma senza rimpianto. Afferra il senso, avrai qualcosa in cambio. Come on! Onda rossa, posse, sta bruciando. È in fiamme, in forza, innescano e esplodono la rima. In prima linea, senza mezzi soldi, anzi, ma tu lo stai capendo. Questa oggi non è solo una festa. Ti colpirà, senza paura. Faremo in modo che tu non voglia ancora, fino alla fine, come la pantera. Aggredita, salita, sempre, ma se tu ci provi, falla in maniera risoluta, assoluta. Sì, perché se spari, disse, risponderò sparando. 2889. Tu non puoi dimenticarlo, Newton è morto. Morto! Morto! Unity Newton è stato assassinato. Batti il tuo tempo. dirti forza, chi è che si fa sotto, parti il tuo tempo, ubriachi senza per un sorso, finiremo in una cella, ma chi, dimmi, è legale, chi legale in questa sporca terra, sequestrano la gente per degli anni in questa sporca terra d'armi, uccidono impunite per la strada le pallottole vaganti. Chi è legale, chi legale? Chi? Il bandito, il criminale, giusto, l'ingiustizia, terribile bellezza. Dentro le celle, le ghetti che contrasto con i morti viventi. Questo è il momento, questo dove è il tuo tempo. Questo, ma quello sarà un altro, il tuo tempo. Il tuo tempo. Batti il tuo tempo. Batti il tuo tempo. Batti il tuo tempo. Batti il tuo tempo. Fotti il potere. Batti il tuo tempo. E che il corpo seme. Batti il tuo tempo. Che fottere il potere. Molteplici furono i temi trattati da Strano Network, eccone un elenco. I rischi collegati alla diffusione delle nuove tecnologie, di nuove forme di controllo sociale, come nel caso delle minacce alla privacy e dello sfruttamento politico e commerciale delle informazioni sul cittadino. L'affermazione di nuovi diritti di cittadinanza e di lotta contro il sistema di mercificazione delle relazioni sociali. La rivendicazione dei pieni diritti di accesso alla comunicazione in rete, la difesa dell'anonimato e dell'utilizzo della crittografia, l'abolizione del copyright su software e contenuti, individuato come vincolo alla libera circolazione dei saperi, una minaccia alle diversità culturali e alla creatività umana, una fonte di esclusione sociale. L'impossibilità di intervenire sul sorgente del software, non permettendo così la possibilità di implementazione, riprogrammazione per realizzare applicazioni innovative. La sperimentazione di nuove modalità di azione collettiva attraverso la rete per la difesa dei diritti civili fondamentali. La critica dei nuovi media e del sistema dell'arte attraverso la proposta di nuove forme della comunicazione orizzontale e no profit. Ascoltiamoci ora quindi un intervento di Ferri Byte sui diritti della comunicazione. Su quello che sono i diritti, diciamo, del comunale in Italia e i diritti del comunale in Italia che sono legati alle situazioni di movimento o al singolo individuo, per cui quello che il singolo individuo può informarsi con le varie modalità di accesso all'informazione proprio del singolo individuo, quello che può fare in forma collettiva o individuale un soggetto unitario per comunicare, tipo si riesce a fare una strana spizza, che cosa mi comporta, per come la legislazione italiana reprime tutte le forme di comunicazione che sono un tantino fuori da un discorso commerciale e fuori da un discorso istituzionale. Tra l'altro, essendo soggetti che si opera in movimenti di trasformazione sociale o comunque di centri sociali gestiti, spesso e volentieri si nota un po', diciamo, l'ignoranza, ma non per fare, insomma, i professorini o gli intellettuali di chissà che. Però anche ragionando magari di chi si approccia per le prime volte a un centro sociale, a un risorso di movimento, compagnia, si vede un po', insomma, l'ingenuità rispetto alle cose, tipo nessuno sa probabilmente un po', spero che molti, insomma, le persone che ci sono questa sera lo sappiano, però se uno scrive un documento e lo pubblica, cioè lo distribuisce pubblicamente, non può essere questo, se non ci mette tutta una serie di relazioni particolari, molte saranno anche le numerose attività tra virgolette virtuali di Strano Network, come la partecipazione e o attivazione di alcune delle liste di discussione non moderate, divenute punto di riferimento per la più vasta rete di gruppi antagonisti in rete italiane, come ad esempio Cyber Rights. Il dialogo con la politica istituzionale per la portata radicale dei contenuti proposti dal gruppo non è sempre facile, soprattutto nella fase iniziale di espansione dell'accesso alla rete internet nel nostro paese a metà degli anni 90. Strano Network insiste, anche attraverso forme di coordinamento con altri gruppi più o meno affini, sulla necessità di promuovere l'alfabetizzazione telematica e di fornire gratuitamente l'accesso ai cittadini a internet. Nel frattempo in Italia e all'estero infatti si formarono diversi gruppi affini a Strano Network con cui furono intrapresi contatti. Intorno a Strano Network iniziarono a ruotare molte persone con interessi in campo artistico, tecnologico o di movimento. Ascoltiamoci ora un pezzo dei Mano Negra, Malavida. Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición me estás dando. Me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Me estás dando. Nel 1994 Strano Network fa suo il modello dell'ipertesto, nato all'inizio degli anni 60 con le ricerche di Ted Nelson e poi sviluppato alla fine degli anni 80 da Tim Berners-Lee. Una delle sue prime iniziative infatti fu quella di creare 4 ipertesti su floppy disk ed anche scaricabili dalle BBS. Da notare che i sistemi ipertestuali allora erano qualcosa di poco conosciuto e innovativo. Solo un paio di anni dopo, infatti, il web inizierà a diffondersi anche in Italia con le pagine ipertestuali. Strano Network utilizzò software ipertestuali diversi per realizzarli, proprio per sperimentare le loro potenzialità. Strano Network voleva così far toccare con mano tutte le potenzialità di questo nuovo strumento, ritenendo che gli ipertesti, se avessero raggiunto una massa di utilizzatori consistente, avrebbero aperto nuovi orizzonti alla conoscenza e alla comunicazione. La scelta dei temi degli ipertesti fu fatta semplicemente in base a quelli che erano gli interessi dei componenti di Strano Network che li realizzarono. Questi i 4 ipertesti come vennero presentati allora. Fluxus di Carla Maltinti e Francesca Storai, realizzato nel dicembre 1993, presenta una storia del movimento storico-artistico che ha rivoluzionato la cultura contemporanea attraverso un percorso di immagini ed informazioni. Meta Network di Tommaso Tozzi e Nazario Renzoni, realizzato nell'inverno 1993-1994. Rivista ipertestuale e interattiva su floppy disk per comunità virtuali. Testi caldi di Ferry Byte, realizzato nel marzo 1994. Osservatorio interattivo sui diritti della frontiera elettronica. È un progetto di comunicazione interattiva permanente, in quanto i lettori navigatori dell'ipertesto sono invitati a spedire il proprio contributo agli indirizzi di Strano Network. Attraverso questo ipertesto vogliamo mettere in rilievo l'importanza di questo strumento di comunicazione, inaugurando al tempo stesso un dibattito sull'uso delle nuove tecnologie dell'informazione. Alcuni argomenti trattati da Testi Caldi sono costi della comunicazione, la legge che reprime la duplicazione abusiva del software, controllo sociale, la legislazione italiana sull'accesso all'informazione nella pubblica amministrazione, hackeraggio sociale, monitoraggio dei lavoratori, nocività dei videoterminali, virus, cyberspazio, realtà virtuale, repressione, eccetera. Stragi di Stato di Stefano Sansavini, realizzato nel marzo 1994. La storia occulta dell'Italia dal dopoguerra ad oggi. È un ipertesto interattivo che vuole ripercorrere le vicende italiane inerenti ad attività dei servizi segreti, stragi di Stato, trame nere, interdipendenza fra mafia, Stato e potere economico, tentativi di colpo di Stato, relazioni tra logge massoniche e poteri dello Stato, ingerenze dei servizi segreti occidentali nella politica italiana, attività dei gruppi fascisti e nazisti, eccetera, dal 1942 ad oggi. Né questa prima versione né le successive non possono e non vogliono essere esaustive. Vorremmo infatti che chiunque fosse in grado di farlo arricchisse questo materiale informativo in modo da ricostruire una memoria collettiva che rischia di scomparire o di essere appannaggio di pochi. Abbiamo scelto l'ipertesto in modo da creare uno strumento di agile consultazione in una materia che purtroppo è così vasta, articolata e complessa, ma che vede i soliti nomi di esseri ignobili ripetersi nel corso degli anni. Nel 1998, Stragi di Stato, rivisto e ampliato, fu pubblicato su web, nel sito web di Strano Network, appunto, dove è ancora oggi visibile. Un elemento importante nella vita del gruppo fu anche la collaborazione alla gestione della BBS Virtual Town TV. Questa rappresentò un significativo passo avanti nell'utilizzo delle BBS in quanto aveva un'interfaccia grafica invece che testuale e la avvicinava al web di internet che ancora in Italia era appannaggio esclusivo degli ambiti accademici e non diffuso a livello di massa come oggi. In Virtual Town TV fu realizzato una simulazione di una città ideale in cui era possibile esprimere arte, musica, sperimentazioni, performance o più semplicemente idee che potevano essere espresse con strumenti ipertestuali o ipermediali. Inoltre, Virtual Town TV permetteva agli utenti di autogestirsi spazi virtuali propri, creandosi e gestendosi forum, aree files ed altro ancora, oltre all'opportunità di fare delle chat in tempo reale fra più utenti. La BBS, infatti, utilizzava più linee telefoniche. Era presente anche la cosiddetta DJ Chat, un servizio che trasformava la BBS in una sorta di radio virtuale, anche se testuale. I membri di Strano Network erano infatti conduttori di 8 differenti trasmissioni che si tenevano in diretta, ognuna in un giorno e ad orari differenti della settimana. La stessa tecnologia usata da Virtual Town TV fu utilizzata anche dalla primissima rete civica milanese e fu parte della proposta fatta da Havana BBS alla rete civica di Roma. Virtual Town TV divenne quindi un fenomeno molto attenzionato dai media e fu presentata anche al Palazzo delle Esposizioni di Roma il 26 febbraio 1995. Un grosso impegno nell'attività del gruppo fu rappresentato dalla difesa dei diritti digitali, dell'accessibilità e dell'inclusività. Innumerevoli furono le iniziative su queste tematiche, come ad esempio diritti virtuali, giornata lunga sui diritti della frontiera elettronica che si svolse il 16 aprile 1994. Alla fine del 1994 nascerà comunque anche il primo sito web di Strano Network, dove verranno riversati i contenuti presenti su Virtual Town TV, grazie alla collaborazione di Decoder. Ed ora ascoltiamoci Cattivi Guaglioni dei 99 Posse. Coltivati a batterie negli alveari di cemento, siamo stati tutti selezionati accuratamente. Come natura crea, la legge poi distrugge, dentro questo ciclo modificato geneticamente che vive la mia gente, in assoluta sincronia col mondo adiacente, ma sempre fuori tempo, guardare e non toccare. Però desiderate, desiderate pure, quartiere programmato, programmato per reato, quartiere programmato per chi tutto carcerato, famiglia condannata, assieme carcerata, famiglia condannata, mantenere un carcere stata. Cattivi guaglioni, noi teniamo malattie precedenti e decidive, cattive, cattive. La colpa è sulla nostra, esiste un mondo non funziona. Cattivi guaglioni, simma noi che simma tutto quanto è nata sbagliata. Cattiva, cattiva, noi non eravamo mancanate, già ci avevano condannata. Stevano, un gruppo di signorine che si lamentavano, due mamme che chiagnevano, non capivano. Cucchiere ne ha parlato, sa va che sa fa, figlia ma dove sta? Totoro che appena avevo fratello era buffè mazzato. Luchetta che parlava rocainata, tutta ammirata, nupata. Calo avarindo pacche tre camise perché che chilo in sede regolata. Gente normale che avevo un contro ospitale o mercato, o in fila per parlare che parente carcerata. Perché rindasticelle non ci trovi peculate, truffa aggravata contro Stato, farsi in bilancio, bancarotta fraudolenta, corruzione magistrato o l'evasione fiscale. Trova a Pascale, rapina a mano armata, trova a Vicenza, spacciatore, arrenato, scippa e estorsione, trova a Diego, risse e danneggiamento aggravato, e si tu vire buono, trovo puro cazzo che cagato, tua legalità, l'inflessibilità, certezza della pena o magistrato e sorveglianza, voi cito una paranza, e gente che ha perduto la dignità, e pagliacci che non fanno varia, e io mi sonno tutto il notte, capo che a bocca aperto la tacca. Cattivi guaglioni, non teniamo malattie precedenti e recidive. Cattive, cattive, la colpa è sulla nostra, esiste un mondo non funziona. Cattivi guaglioni, simma noi che simma tutto quanto è nata sbagliata. Cattive, cattive, noi non eravamo mancanate, già ci avevano condannata. Condannata, condannata in primo grado a commettere reati, nata in tacetti quartiere che a te che le cadenim e che le cacciamma rubata. Concentrati, invogliati, sedotti, abbandonati, poi l'appello a Cassazione e chiamo tutto quanto carcerata. Niente clemenza, e se non fosse abbastanza, roba si pregiudicata, sospettata, delinquente abituale, sorvegliata. Ah, che non ci sto stata, ci sto stata. Stanno i guardi e sta galera, se continua magistrata, ca, ta fai con l'avvocato. È un ambiente esclusivo, è l'ambiente negativo, estorsione, scippo, omicidio, spaccio, aggressione, ricettazione, rapine e tamanere. Tentato, sventato, reiterato, a mano, con destrezza, a mano armato, con tristezza, aggravato, con l'intenzione loreato, ma capisci? Stai sciotata? Avevo fa una bella cosa, si entano frate, non veni mai a tu stonche casista, sta a casa tua e vir quanto è suggestivo, quando vai a definitiva. Cattivi guaglioni, noi teniamo malattie precedenti e recidive. Cattive, cattive, la colpa è sulla nostra, esiste un mondo non funziona. Cattivi guaglioni, simma noi che simma tutto quanto è nata sbagliata. Cattiva, cattiva, noi non eravamo mancannate, già ci avevano condannata. L'11 maggio del 1994 scatta la prima operazione di repressione della telematica e dell'utilizzo delle nuove tecnologie in ambito amatoriale italiana, denominata Italian Crackdown. Strano Network si impegnerà moltissimo per organizzare la protesta, organizzando dapprima una conferenza ipermediale nazionale in rete nell'autunno del 1994 che coinvolgerà tutte le istanze della telematica amatoriale in una discussione collettiva finalizzata non solo a restituire completezza e coscienza di classe, ma anche ad organizzare iniziative e produrre documenti. Poi, il 19 febbraio del 1995, Strano Network organizzò al Centro Pecci per l'arte contemporanea di Prato un grande convegno dal titolo Diritto alla comunicazione nello scenario di fine millennio, a cui parteciparono circa 2000 persone e la rappresentanza della quasi totalità delle reti telematiche amatoriali presenti allora in Italia. Gli atti di tale convegno furono poi pubblicati nel libro Nubi all'orizzonte. Il 21 dicembre 1995 Strano Network inventa e realizza il primo strike o corteo virtuale, una forma di protesta partecipativa in rete. 10 siti del governo francese vengono sensibilmente ingolfati ed il loro funzionamento rallentato da migliaia di net manifestanti per protesta contro i test nucleari nell'atollo di Mururoa. Successivamente viene pubblicato da Strano Network un libro sulla pratica del ne strike e sul no copyright, dal titolo Ne strike, no copyright, eccetera. Venne poi realizzato un sito web dedicato al ne strike, sulla home page era possibile leggere. Che cos'è un ne strike? Ne strike, o più propriamente corteo telematico, è una pratica di mobilitazione in rete che consiste nell'invitare una massa considerevole di utenti possessori di accesso a internet e browser a puntare i propri modem verso uno specifico URL ad una precisa ora e ripetutamente, in maniera tale da occupare un sito web fino a renderlo inutilizzabile almeno per la durata della mobilitazione. Un'occupazione di banda simile ad un corteo fisico che occupa una strada fino a renderla inaccessibile ad altri. L'idea base è quella di un'azione individuale in rete ritenuta legittima a tutti gli effetti se portata avanti contemporaneamente da una massa di utenti e su un comune indirizzo può causare un disservizio. Negli anni successivi vennero realizzati altri ne strike da Strano Network, ma questa forma di protesta fu ripresa anche da altri gruppi per realizzare diverse campagne di protesta sia locali che internazionali. Poi, nel luglio del 2001, durante le proteste contro il G8 a Genova, fu effettuato un strike contro i siti istituzionali del meeting dei potenti della terra. Successivamente la magistratura aprì un'inchiesta e il sito nestrike.it fu sequestrato. In tutto il mondo a quel punto comparvero più di 40 mirror del sito. Quindi, alla fine, al posto di un sito, ce n'erano più di 40, alcuni dei quali sono ancora online. Sulla home page dei siti mirror fu pubblicato il comunicato stampa di Strano Network. Ne riportiamo uno stralcio. Oggi, sull'onda lunga delle giornate di Genova, con la loro carica di repressione e morte perpetrata dalle cosiddette forze dell'ordine, il sito nestrike.it viene sequestrato e rimosso dalla rete dalla Questura di Bologna su richiesta del compartimento della Polizia Postale di Genova. Il sequestro nasce infatti da un ramo delle 8 inchieste della magistratura sui fatti di Genova, anche se fino ad ora non è dato sapere chi sia il magistrato che ha firmato l'ordinanza. Invitiamo tutti a diffondere questo comunicato e chiediamo a chiunque ne abbia la possibilità di mirrorare il sito sia in Italia che all'estero. Nel 1996 Strano Network viene contattato da chi sta preparando la rete civica del Comune di Firenze per collaborare. Strano Network si fa quindi promotore di un coordinamento di tutte le realtà telematiche della zona metropolitana di Firenze, che prenderà il nome di Firnet. Questo coordinamento chiederà al Comune di dare ad ogni cittadino di Firenze connessione a internet e una casella email gratuitamente per rivendicare la comunicazione telematica come diritto universale e per garantire a tutti la libera circolazione dei saperi. Il Comune risponde negativamente e ci propone invece di curare una sezione della nuova rete civica sulla pace e sullo sviluppo sostenibile. Strano Network rifiuta la proposta, insieme a Firnet, e ha inizio una campagna contro il Comune per portare avanti le richieste fatte utilizzando tutti gli strumenti tecnologici a nostra disposizione ed anche gli strumenti più tradizionali, come i volantinaggi, alle iniziative estive del Comune. Nell'agosto del 1997, alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Bologna, in collegamento con la Festa Nazionale dell'Unità a Firenze, Strano Network realizza Cotropia, 4 ore di lavoro di Strano Network. Durante le 4 ore, i partecipanti di Strano Network realizzano pagine web, mandano email e fanno altre cose che facevano parte della loro quotidiana attività di gruppo di lavoro sulla comunicazione, per cercare di creare relazioni e culture orizzontali. Gli anni successivi di Strano Network sono caratterizzati da un grande attivismo, promuovendo o partecipando ad eventi in cui vengono portati avanti le battaglie per il diritto di tutti alla comunicazione telematica come diritto universale e alla libera circolazione dei saperi, o per la divulgazione delle conoscenze acquisite sulle nuove tecnologie, come ad esempio un incontro sui virus informatici al virus di Empoli, o una serie di incontri sull'utilizzo delle nuove tecnologie al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Firenze. Con la Facoltà di Scienze Politiche fu pubblicato anche un libro che raccoglie gli atti di un convegno dal titolo Una ragnatela sulla trasformazione, che verrà presentato alla libreria City Lights di Firenze nel 1998. E nel 1998 Strano Network lancia in rete l'idea di organizzare un meeting annuale con l'obiettivo di spezzare lo stereotipo diffuso che fa corrispondere all'etichetta di hacker quella di pirata informatico. In questi anni, con il decollo di internet in varie località del mondo, si erano tenuti vari incontri di hacker che volevano socializzare la loro conoscenza, dibattere i diversi aspetti delle nuove tecnologie e che volevano la libera circolazione dei saperi, anche se con diverse modalità e in qualche caso giungendo a compromessi con esponenti del mercato dell'informatica. Strano Network costruì, insieme ad altre realtà simili, gli strumenti per organizzare in rete l'evento, un sito web dedicato e una mailing list dedicata. L'organizzazione quindi fu fatta tutta in rete, a parte la predisposizione della logistica per ospitare l'evento a Firenze con il contributo di tutti coloro che volevano dare una mano. In rete fu deciso anche chi avrebbe dovuto e potuto partecipare, e cioè il vero hacker, cioè chi vuole gestire se stesso e la sua vita come vuole lui e sa sbattersi e battersi per farlo, anche se non ha mai visto un computer in vita sua. Questo slogan rimarrà come emblema dei successivi hack meeting che si sono poi svolti ogni anno, fino a quello di quest'anno a Brescia dal 14 al 16 giugno. Un'altra decisione fu di tenere l'evento in un centro sociale occupato ed anche questa diventerà una tradizione. Fu deciso che durante l'evento sarebbe stata cablata una rete locale collegata a internet. Fu deciso che chi volesse portare un qualsiasi contributo lo avrebbe presentato e discusso prima in rete e poi durante l'evento. Fu davvero una grande esperienza ed un grande successo. Nei 3 giorni di hack meeting parteciparono più di 1000 persone provenienti da tutto il mondo che si sbatteranno per scambiare le loro esperienze relative all'uso delle nuove tecnologie, all'attivismo e per la libera circolazione dei saperi. Dagli hack meeting poi sono nate tante esperienze per dare continuità all'incontro annuale, come ad esempio gli hack club. Ed ora ascoltiamoci Clandestino di Manu Chao. voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Nel 2001 Strano Network organizza il primo MP3 Contest all'Anfiteatro delle Cascine. Furono realizzati anche dei concerti virtuali con due musicisti che suonavano all'Anfiteatro delle Cascine e due alle rampe di San Niccolò. Fu realizzata anche una performance al Tenax in cui su diversi schermi compaiono un braccio di un partecipante a New York, una testa di un partecipante ad Amsterdam, una gamba di un partecipante a Firenze, realizzando un corpo telematico virtuale. Strano Network vive in simbiosi con i movimenti e l'ultimo grande movimento che si esprime è quello antiglobalizzazione, che ha il suo punto più alto nelle manifestazioni contro il G8 a Genova nel 2001. Per questo Strano Network realizza a Firenze una controinformazione rispetto a ciò che viene diffuso dai media ufficiali, con computer e proiettore. Il materiale proiettato sarà poi raccolto e diffuso in un compact disc dal titolo Immagini e suoni delle giornate di Genova. Questa la presentazione dell'evento sul CD. Dalla piazza alla rete, di nuovo alla piazza, per una verità comunque rivoluzionaria. 3 giorni di cronaca telematica da Genova attraverso la rete, per un nuovo modo di comunicare e socializzare l'informazione delle piazze. Quello che segue è una cronaca che alcuni di noi del gruppo di lavoro sulla comunicazione Strano Network rimasti a Firenze hanno realizzato dei fatti di Genova dell'estate 2001 attraverso i media indipendenti quali www.ecn.org, www.radiogap.net, www.tmcrew.org, www.italintimedia.org. Si tratta della proposta per chi non può viversi la protesta direttamente, di attrezzare infopoint di controinformazione, così come abbiamo realizzato noi con successo nel caso dei fatti di Genova dal parterre, ospiti di Controradio e le nozze di Figaro. In una piazza pubblica con maxi schermo, impianto audio, collegamenti telematici a media indipendenti che hanno permesso di bypassare l'informazione ufficiale, spesso frutto di filtri e censure, e socializzare in real time, testare e discutere collettivamente quello che stava succedendo in piazza Genova. vuole anche essere un atto di denuncia dell'assassinio di Carlo Giuliani e del mattatoio del centro stampa del Global Social Forum avvenuto l'ultima notte alla scuola Diaz. L'informazione e le persone vogliono essere liberi di poter vivere e comunicare. Questa, ad esempio, la registrazione ripresa da Radio Gap e ritrasmessa da Strano Network dell'irruzione della polizia al Media Center della scuola Diaz di sabato 21 luglio 2001. Amici ascoltatori, un momento molto tragico, i telefoni sono isolati, okay, speriamo sì. Che le comunicazioni comunque continuino a funzionare. Chiamiamo l'ANSA, è dentro al cortile la polizia. È dentro al cortile. Bene, ascoltatori, ufficiale, sono qui dentro, sono nel cortile, non sappiamo quello che succederà. Cerchiamo di fare qualcosa, di non mantenere, di non perdere il controllo. Stanno assaltando il Media Center di via Cesare Battisti qui a Genova. Stanno cercando di sfondare, amici ascoltatori, stanno cercando di sfondare la porta nella quale ci siamo barricati, siamo come topi in trappola, cercheremo di tenermi infortunati fino a quando ovviamente sarà possibile. Daniela, al microfono, per favore. Io non me ne vado dal mixer finché non mi ci trascinano via. È una scena cilena, stanno sfondando la nostra porta. Stanno sfondando la nostra porta, non so se lo sentite. Stanno cercando di sfondare la nostra porta al secondo piano. Bene, mani alzate, resistenza passiva. Ragazzi, uno sgombero in diretta, Radio Gap, ragazzi, sta per essere sgomberata. Manteniamo calma, la calma. Tutti e mani alzate. Ok. Tutti con le mani alzate. Leviamo quel tavolo, noi non abbiamo nulla da nascondere per nessuno. Noi non abbiamo nulla da dire, non abbiamo nulla. I telefoni sono isolati. Non abbiamo nulla da nascondere, ci hanno isolato i telefoni, probabilmente ci hanno anche tagliato. Ci hanno tagliato le linee, sì. Ci hanno tagliato le linee, non sappiamo se ci stanno ascoltando. Anche da qui. Bene, 40 persone all'interno della diretta, dello studio di diretta di Radio Gap. Siamo tutti con le mani alzate, aspettiamo la celere che sta sfondando la porta del nostro secondo piano. L'invito è a mantenere la calma anche se è difficilissimo. La porta per il momento rimane chiusa, a secondi sarà aperta. Ragazzi, è un momento veramente difficile. Ecco, sentiamo anche i rumori, non so se... Non siamo isolati con i telefoni, Non siamo isolati, bene, cerchiamo di telefonare e di comunicare, ragazzi, con l'esterno. Ragazzi, telefonate, diffondete la notizia. A tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando Radio Gap. Diffondete la radio dappertutto. Su, calma, non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla. Stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla. Continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale. Eccoli, e questa polizia fascista sono che è entrata poliziotti nella in radio, sede di una radio. Manganello in mano. Poi i componenti di Strano Network dovranno affrontare sempre più gli impegni della quotidianità ed il tempo dedicato all'attivismo si riduce. Per molti di loro, se non lo era già, il campo delle nuove tecnologie diventa un lavoro e, come ha risaputo, quando una passione diventa un lavoro, perde gran parte del suo fascino. In ogni caso, molti di coloro che hanno partecipato all'esperienza di Strano Network hanno continuato individualmente e collettivamente la loro battaglia per la comunicazione telematica come diritto universale e per la libera circolazione dei saperi, per il diritto a diffondere con tutti gli strumenti necessari la possibilità di dire ciò che voglio a chi voglio, ma impedire la conoscenza di dati su di me e sul mio agire a chi non voglio. Come afferma in un'intervista uno dei fondatori di Strano Network. Per chi volesse approfondire c'è il CD di cui abbiamo parlato, Cronache dal G8, Le giornate di Genova, visibile sul sito di Strano Network, strano.net. C'è il video di presentazione delle attività di Strano Network 1993 Happening Multimediali di Strano Network al CSA Ex Emerson Firenze, scaricabile da archive.org. È anche uscito un numero della rivista Zapruder il numero 45, dal titolo Hack the System, di gennaio-aprile 2018, liberamente scaricabile dal sito della rivista. Ci sono anche diversi libri. Di Tommaso Tozzi, Le radici dell'activismo in Italia, lo sviluppo delle reti telematiche antagoniste e cyberpunk, in 3 volumi, tutti liberamente scaricabili in rete. Di Strano Network, Nubi all'orizzonte, diritto alla comunicazione nello scenario di fine millennio, iniziativa nazionale in difesa della telematica amatoriale, scaricabile da archive.org. Di Anna Carola Freschi, La società dei saperi, reti virtuali e partecipazione sociale. Di Strano Network, Next Strike, No Copyright Edge, scaricabile da archive.org. Di Anna Carola Freschi e Laurea Leonardi, Una ragnatela sulla trasformazione, scaricabile da archive.org. Si conclude così anche questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte. Alla prossima!